Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Il teatro dei sogni è il nuovo romanzo di Andrea De Carlo pubblicato dalla Nave di Teseo. Questo romanzo, secondo me, fa parte della categoria dei romanzi di De Carlo che, diciamo, danno una certa critica della società che ci circonda, ma lo fa attraverso l'ironia. Diciamo che De Carlo sa mettere in evidenza i vizi, il malcostume, però, diciamo, facendo sorridere il lettore, anche se a volte, ve lo assicuro, in modo decisamente amaro. In questo caso, gli obiettivi, diciamo, di questa critica sono due: la politica, o meglio un certo modo di fare politica, e il mondo della televisione. Anche qui ovviamente ci riferiamo a un certo modo di fare TV, diciamo quella televisione dei sentimenti spiattellati in modo veramente volgare, quella televisione che deve sempre e comunque urlare allo scoop, insomma la TV delle lacrime, definiamola così. I personaggi sono diversi, però diciamo sostanzialmente che i protagonisti della storia sono soprattutto due. C'è Veronica Del Muccio, che è una giovane giornalista. Lei sognava di fare la reporter di guerra, ma invece appunto lavora come inviata per un programma televisivo di cronaca, diciamo di quelli del pomeriggio, per intenderci. Un giorno sta mangiando una brioche, sta facendo colazione, si sta per strozzare e viene salvata attraverso la manovra di Heimlich da tale Guiscardo Guidardini, che poi si scopre essere un marchese che ha scoperto nella sua proprietà i resti di un teatro greco, e da qui ne nasce tutta, insomma, una vicenda a tratti anche surreale e grottesca. Allora, Andrea De Carlo, partiamo proprio dai personaggi, per esempio da Veronica Del Muccio. Lei è, si descrive come, per esempio, un ex balbuziente, tutto sommato è una ragazza insicura che però, diciamo, viene proiettata tutti i pomeriggi in televisione ed è assolutamente dipendente dai social. Che personaggio è? Sì, è come descritta, appunto, ha queste caratteristiche. Io non volevo raccontare di un... non volevo scrivere di uno stereotipo, è la cosa che odierei di più, no? E quindi non volevo fermarmi alla superficie di un personaggio come questo, che superficialmente ti appare detestabile, insopportabile, una che appunto si strozza con la brioche perché il primo dell'anno vuol farsi una cosiddetta story e far vedere a tutti questa sua celebrazione del cornetto intinto nel cappuccino. Però non volevo fermarmi all'immagine di una deficiente, superficiale, che in realtà questa è una donna che aveva delle aspirazioni, aveva dei sogni, voleva comunque fare la giornalista vera, quello era quello che lei si immaginava. Poi le è capitato di lavorare per questo programma detestabile che si chiama Tutto Qui, col punto esclamativo finale, ed è quello che fa, e lo fa anche con un senso di missione, poverina, lo fa buttandosi nelle risse condominiali, si precipita sulle scene degli incidenti tragici, cerca di attizzare. Cioè, lei, a un certo punto tu scrivi che lei è stressata dal lavoro, dal dover schizzare su e giù tra le regioni italiane come una pallina da flipper a seconda di dove la spediscono, con zero preavviso. Sì. Che è vero, possiamo dirlo, insomma, noi lo conosciamo un po' il mondo della televisione, del giornalismo televisivo, è così. Eh sì, c'è un critico che ha scritto una recensione su un suo programma chiamandola kamikaze del nulla, perché poveraccia, lei applica questo spirito da missione, da prima linea, però per questo trash, per questo frullato di niente alla fine, no? Che è il programma per cui lavora. Però volevo appunto raccontare nella sua complessità, comunque è una donna con dei pensieri, con delle aspirazioni, con un sacco di contraddizioni, e volevo raccontarla dal di dentro, quindi non volevo affatto fermarmi alla superficie. E facendo così, poi tu entri in sintonia profonda con un personaggio e provi più che simpatia. Nel mio caso divento lei, nei capitoli che raccontavo dal suo punto di vista ero Veronica Del Muccio, e quindi come fai Come fai a non provare empatia profonda, no? Io ho provato anche molta tenerezza verso questo personaggio, perché alla fine è un po' vittima delle circostanze, delle situazioni, è una che però cerca di darsi da fare con con gli elementi che ha a disposizione. Lei, lo ricordiamo, lavora appunto per questa trasmissione televisiva. Tu a un certo punto scrivi: fare l'inviata speciale per Roberta Riscatto non è mica uno scherzo. Al pubblico a casa sembra tanto buona e cara, ma può inferocirsi quando meno te l'aspetti. È capace di gridarti le volgarità più orrende del mondo, umiliarti davanti ai tecnici, assistenti e pubblico in studio. È vero che alcuni conduttori televisivi, appunto, hanno un po' questo, come dire, doppio volto? Sì, credo proprio di sì. Poi questa Riscatto, che è quella che appunto dallo studio conduce tutto, e quindi è quella per cui Veronica lavora come inviata, e ha questa doppia faccia, no? Sembra una persona così buona, così interessata ai sentimenti delle vittime che vengono usate come materiale per il programma, ma poi diventa spietata improvvisamente con chi lavora per lei. E anche questo rapporto mi interessava, no? Questo rapporto a distanza fra l'inviata e la conduttrice. E appunto il fatto che questa inviata, questa Veronica, che sembra così vincente, così trionfante, poi è anche una vittima a sua volta. Però poi è una carnefice. È fragile, ha le sue fragilità, sì, insomma. Certo, è anche una carnefice perché usa poi le persone che intervista, in fondo, senza nessuno scrupolo. E questa era questa dualità che mi interessava, questo suo essere vittima e carnefice allo stesso tempo. Ecco, in questa tua, diciamo, critica, visione anche appunto ironica, questa satira anche del mondo della televisione, mi ha ricordato per certi aspetti un altro tuo romanzo, Tecniche di seduzione, che io avevo amato moltissimo. In quel caso c'erano degli aspetti ironici sul mondo dell'editoria, quindi scrittura di libri, giornalismo e così via. In questo caso invece la televisione. Una delle persone ovviamente che Veronica Del Mucero dovrà intervistare è questo Guiscardo Guidarini, perché insomma si viene a sapere che lui ha fatto questa scoperta sensazionale di questo teatro greco nella sua proprietà, e qui si scatenano, come dire, le lotte politiche, perché ognuno vuole mettere su questa scoperta il suo marchio. Da una parte quindi c'è Annalisa Sarmani, che è il vice sindaco di Suverso, sarebbe insomma il capoluogo di provincia, diciamo, di questo territorio, e dall'altra c'è Massimo Bozzolato, che è il sindaco di Cosmarate, dove appunto è stato fatto questo ritrovamento. Sono di due partiti politici che tu prendi chiaramente in giro in modo, secondo me, meraviglioso. Bozzolato fa parte di Rivolgimento, è un partito che è addirittura il marchio registrato, e lui è arrivato al potere rivolgendo, diciamo, ribaltando tutto, però adesso è vittima di questo stesso meccanismo perché è attaccato dai cosiddetti bandalarghini. Insomma, ci vuoi spiegare un po' questo Rivolgimento? Ti sei vagamente ispirato ad una formazione politica esistente? Sì, direi anche non vagamente, avevo voglia di parlarne, insomma, di politica mi capita, come credo a chiunque, di rifletterci, è sotto gli occhi di tutti sempre, no? Se ne parla molto ed è diventata anche molto elemento di spettacolo, nel senso che i politici sono molto ormai presenti in televisione, dappertutto, li si vede, si autorappresentano, no? C'è molto questo senso di vederli come parte di un circo che si mette in scena ogni giorno. Volevo raccontarli e dire poi quello che penso di loro, però volevo farlo anche quello dal di dentro, quindi attraverso gli occhi poi di due rappresentanti di questi due movimenti. Appunto, uno è questo movimento dei rivolgimentini, il rivolgimento marchio registrato, e l'altro l'Unione Italiana, l'Unione Nazionale. L'Unione Nazionale invece è un partito, diciamo, sovranista. C'è il leader che sfoggia, non mette la giacca ma mette spesso dei giubbotti delle forze dell'ordine. Sì, direi che lì è proprio, è trasparente, no? Però nello stesso tempo poi mi divertiva poi giocarci sopra, ed è quello che ho fatto. Mi sembra che poi trovare una chiave satirica sia, per me perlomeno, portare la luce dell'ironia in una materia che altrimenti uno potrebbe descrivere con toni diversi, ma magari severi, un po' con lo sdegno dell'intellettuale, che a me non interessa. A me interessava parlare di cose serie, che hanno conseguenze ancora più serie, ma farlo con ironia, appunto, ridendoci sopra. E quello secondo me è poi il modo migliore di mettere in risalto certi aspetti che sono oggettivamente poi ridicoli, a volte farseschi, ed è quello che ho fatto. Ecco, entrambe queste forze politiche cercano di mettere appunto il loro marchio su questa scoperta, ma in realtà è evidente che a nessuno interessi realmente la cultura, lo fai capire insomma da tutte le cose che scrivi in questo romanzo qui e lì. Insomma, questo è anche un romanzo politico? Sì, è decisamente un romanzo politico, direi. Poi può darsi che lo siano, che ogni romanzo lo sia, se uno parte dall'idea che il privato è politico, eccetera. Ma in questo caso lo è molto più apertamente di altri. E volevo parlare di tante cose diverse, ma di com'è la politica adesso, di come rappresenta male un paese che è pieno di risorse umane come il nostro, di come tutto viene semplificato, ridotto a slogan, ridotto a totem di cui aver paura e contro cui inveire, della semplificazione tremenda che viene operata dalla politica, di temi molto complessi che andrebbero affrontati in modo molto più articolato. E poi volevo parlare dell'intreccio perverso che c'è fra politica e comunicazione, l'uso della comunicazione che per certi politici è particolarmente sofisticato e che si basa appunto sulla distorsione, sulla riduzione a parole d'ordine, a slogan, a immagini, a sigle, a acronimi che vengono usati come spauracchi. Volevo parlare di tutto questo e farlo implicava scrivere un romanzo politico. Ecco, ci abbiamo girato un po' intorno, ma è evidente che tu ti riferisca alla Lega e ai 5 Stelle, anche senza citarli esplicitamente certo. Nel tuo romanzo. Ma perché hai scelto di esercitare la tua satira nei confronti di questi due partiti politici? Perché sono quelli più nuovi, per altre ragioni, per quali insomma? Ci sono varie ragioni. Beh, una è che questi due partiti erano quelli che poi governavano il nostro paese fino in fondo a un anno fa. Quelli che avevano più consenso e quindi insomma che rappresentavano in un certo modo la maggior parte degli elettori italiani e quindi sono rilevanti ed è interessante vedere quali siano i loro meccanismi interni. Il fatto che il rivolgimento nel romanzo abbia il marchio registrato intorno al nome non è affatto lontano dalla realtà delle cose quando si parla dei 5 Stelle, che sono un marchio registrato. L'altro è un partito sovranista violentemente anti-europeo che mi ha generato e mi genera tuttora enormi preoccupazioni riguardo al futuro del nostro paese, perché poi al di là dell'aspetto anche amabile che Salvini può avere quando non assume atteggiamenti truci, però ci sono delle cose lì dentro che mi preoccupano molto, come per esempio i legami con la Russia, il fatto che questi legami si manifestino in modi apparentemente incomprensibili, ma invece se indaghi un pochino capisci cosa c'è dietro. Ma un partito che fra i pochissimi non ha aderito a una condanna da parte dell'Unione Europea di Lukashenko, il dittatore della Bielorussia. Insomma, ci sono aspetti molto preoccupanti. Io volevo parlarne con ironia, ma questo non toglie niente alla serietà dei temi. Grazie ad Andrea De Carlo, ora in libreria con Il Teatro dei Sogni, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie Andrea. Grazie Alessandra, è stato un piacere. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Prima di impatto, quella di Mattia Insolia, che è autore di Gli Affamati, pubblicato da Ponti alle Grazie. Questo è un romanzo pieno di rabbia, di dolore, anche di violenza. I protagonisti sono due fratelli, Paolo, che ha 22 anni, e Antonio, che ne ha 19. La madre è andata via di casa perché, sostanzialmente per sottrarsi al marito violento. Il padre, che era appunto un alcolista, era morto dopo qualche tempo. Quindi questi due fratelli, fratelli Acucella, vivono insieme da soli da più di un anno, in un piccolo paese, diciamo, del sud Italia, Campo Rotondo. Paolo lavora in un cantiere. Antonio va ancora a scuola, dovrebbe cercarsi un lavoro, ma insomma a volte sembra essere quasi indolente. Il rapporto fra i due fratelli viene descritto così nel romanzo. Avevano costruito una gerarchia che funzionava e se avessero fatto altrimenti, gli ingranaggi di quell'equilibrio si sarebbero inceppati. La loro vita era legata da un'implicita promessa di subalternità spontanea ed eterna. Allora, Mattia, partiamo proprio dai due personaggi, dai due protagonisti. Che tipo di rapporto hanno Paolo e Antonio? Ma i miei ragazzi, Antonio e Paolo, che appunto sono fratelli, hanno una sorta di rapporto che è un amore per necessità, cioè loro due si trovano soli al mondo. Come hai detto giustamente tu, il padre è morto e la madre è scappata da casa già da tanto tempo, e quindi è come se si aggrappassero l'uno all'altro nella continua ricerca di un appiglio che li faccia stare a galla, perché la loro, diciamo che finora il mondo non li ha trattati bene, e si sentono schifati dalla vita, si sentono proprio malmenati. E per questa ragione ogni giorno, nella quotidianità, quindi anche nelle piccole cose, si sentono come se avessero sempre bisogno di qualcosa o anche di qualcuno a cui aggrapparsi per non toccare il fondo, perché di questo fondo, nonostante loro bene non sappiano cosa ci possa essere, hanno molta paura. Quindi lo definirei un amore per necessità. Ecco, in questo rapporto vediamo che Paolo è animato sempre da una grandissima rabbia. A un certo punto tu scrivi addirittura che sembra essere una pentola a pressione, che ha bisogno di sfiatare lentamente e che Antonio costituisce un po', è quasi costretto a essere il suo coperchio. E quindi si crea anche un equilibrio fra loro. Antonio impedisce forse a Paolo di esplodere e Paolo impedisce invece ad Antonio di implodere, perché Antonio ha un carattere molto diverso da Paolo, sembra essere, come dire, stare più nelle retroguardie, più remissivo, è così? Sì, è proprio come dici tu, cioè Antonio ha la tendenza a tenere tutto dentro e quindi ha sempre paura di implodere, perché entrambi i ragazzi, diciamo, sentono molta rabbia. È una rabbia che proviene da un vuoto e il vuoto a sua volta viene dall'abbandono. Ecco, la rabbia ognuno la gestisce a modo proprio, come il dolore, come tutte le emozioni che tutti possiamo provare. Mentre Paolo è in una lotta contro il mondo continua e quindi esplode tutti i giorni, anche nelle piccole cose appunto, Antonio tende più a prendersela quasi con se stesso. Lui ha paura del mondo, quindi si richiude in se stesso e quello che gli succede, quello che potrebbe succedergli, è di implodere. Quindi entrambi cercano un po' di fermare l'altro nel tentativo appunto di non farlo affondare, come dicevo prima. Ecco, Paolo è uno che esercita la violenza anche per questa rabbia che tiene dentro, l'esercita nei confronti delle persone ma anche degli animali, per esempio ci sono diverse scene di violenza, e invece Antonio, dicevamo, rischia sempre un po' di implodere. A un certo punto Antonio sembra innamorarsi di una ragazza, ma più che innamorarsi lui nota questa ragazza, quest'Anna, che lui dice, lo ammette, dice non è bella, non ha niente di attraente. Però lui sente proprio il bisogno di sentirsi desiderato, ha bisogno che qualcuno pensi a lui. Questo è un romanzo fatto anche di tanti vuoti emotivi. Sì, lo è, perché appunto la rabbia, che poi è il tema dominante di tutto il romanzo, in qualcosa deve affondare le radici, e io credo che affondi le radici nel vuoto che entrambi sentono dentro, e questo deriva sia dall'abbandono dei genitori ma anche dall'incapacità che hanno entrambi di provare qualcosa. Cioè, si tratta di ragazzi che non sono stati educati da un punto di vista sentimentale, sono un po' come degli animali selvatici, cioè loro soddisfano gli istinti primordiali, quelli più immediati, però nel momento in cui magari devono elaborare dei sentimenti o delle emozioni che siano più complesse, come appunto l'interesse per una ragazza o l'amore stesso, che sembra un sentimento semplice, però in realtà ci vuole tanta forza per riuscire a elaborarlo, secondo me. Ecco, in quel momento lì loro sentono che questo vuoto è quasi qualcosa di più rassicurante, perché lo conoscono, perché ci hanno sguazzato, perché finora sono cresciuti lì dentro. E infatti, a proposito di vuoto, c'è una frase che mi ha colpito molto nel tuo romanzo. Si riferisce al momento in cui Antonio avrebbe trovato un lavoretto ma decide di rinunciare a questo lavoro, e tu scrivi: in fondo non possedeva niente, neanche se stesso forse, ma pur di tenerselo stretto quel niente tanto rassicurante, avrebbe rinunciato a qualsiasi altra cosa. E questo, insomma, mette in evidenza come questi ragazzi veramente siano legati mani e piedi quasi con questa sensazione di vuoto alla quale sono abituati. A un certo punto della storia, tanto non facciamo spoiler, nel senso che avviene quasi all'inizio del romanzo, la madre torna a casa, la madre Giovanna, però la loro reazione, soprattutto quella di Paolo, è assolutamente di rifiuto. Sì, perché come dicevo prima, nel caso in cui loro avessero accolto con benevolenza la madre e il suo ritorno, avrebbero dovuto assecondare dei sentimenti d'affetto, d'amore nei suoi confronti. Però al di là della rabbia, perché comunque Giovanna li ha abbandonati, quindi loro oggettivamente si sentono, sono molto arrabbiati con lei per qualcosa che lei ha fatto. Al di là di questo, ecco, loro conoscono l'abbandono, loro conoscono la rabbia, loro conoscono il vuoto. E piuttosto che assecondare dei sentimenti come l'amore nei confronti della madre, piuttosto che sforzarsi di elaborare dei sentimenti belli per questa donna, preferiscono ancorarsi alla rabbia, perché loro avvertono questa rabbia, avvertono questo vuoto come quell'istinto che fino ad ora li ha fatti andare avanti. Quindi nel momento in cui arriva Giovanna, nel momento in cui torna la madre, nella confusione generale, decidono, soprattutto Paolo, di ascoltare quella rabbia che in un certo senso poi è quella che li ha cresciuti e che è diventata una sorta di genitore. Ecco, c'è da dire che il contesto, tra l'altro, non aiuta moltissimo questi fratelli, perché quando tu descrivi Campo Rotondo, insomma, non sei molto generoso, nel senso che tu scrivi: Campo Rotondo era un pezzo di terra sconclusionato, dal quale la gente cercava di fuggire in tutti i modi e chi restava quasi si vergognava di farlo. E poi, nel loro microcosmo della casa, sostanzialmente il pezzo di giardino dietro casa era diventato una discarica a cielo aperto. Insomma, anche il contesto proprio anche estetico, urbanistico in cui si muovono, e sociale ovviamente, non è dei migliori, diciamo che appunto non li aiuta. Beh no, ma il fatto è che in realtà Camporotondo io l'ho immaginato come una sorta di terzo protagonista, cioè gli spazi, quando una persona, un personaggio vive gli spazi, poi è anche un po' assorbito da quegli edifici, da quelle strade, e io volevo che in un certo senso lo sfacelo che stanno vivendo Antonio e Paolo venisse rispecchiato anche attraverso Camporotondo, cioè volevo che proprio si avesse questa idea di rovina, perché si tratta di anime in rovina nonostante la giovane età, e volevo che vivessero a loro volta in quasi delle macerie, in un certo senso. Poi c'è il giardino, che per come lo intendevo io ha un'importanza fondamentale, perché rappresenta un po' l'infanzia di Antonio e Paolo, cioè proprio è il posto dove hanno vissuto di più con i genitori, per le domeniche, le grigliate quando erano piccoli. Infatti Antonio lo ricorda in modo bello quel giardino, ma adesso è diventato appunto una discarica a cielo aperto. C'è come un'osmosi fra i sentimenti interiori appunto dei protagonisti e l'ambiente che li circonda. Sì, loro in effetti in quel giardino non fanno altro che buttarci rifiuti, che lasciare tutte le scorie del presente che loro collegano in un certo senso al passato, cioè tutti quei piccoli dolori che si sono ammonticchiati fino ad arrivare ad essere una grossa montagna devono finire in quel giardino, perché è a quello che appartengono, è all'infanzia, è da lì che arriva tutto. E quindi sì, cioè, c'è una sorta, si riflettono un pochino gli spazi con i personaggi. Grazie a Mattia Insolia, autore di Gli Affamati, pubblicato da Ponte alle Grazie. Grazie Mattia. E Grazie a te, grazie a tutti. anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete trovarci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri-Radio24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, suoruba.it!